ricorderai le nostre braccia stese in un tappeto di candele accese, ma lentamente sentirai nell'aria il vuoto di un battito e sognerai di poter respirare la dolce musica del Natale che ci portava come corpi appesi tra fuoco e nuvole. Un profumo di fragole spogliava il cuore, in un attimo si vedeva il mare, il tempo sai si può inventare. La verità è che passiamo le notti a pensarci e cullarci tra sogni e ricordi. La verità è che facciamo di tutto per allontanarci alimentando sbagli, finché un bel giorno come per incanto tra la luce e il vento sei a un passo da me, ed è in quel giorno che il mio cuore incontra l'amore. Quante volte abbiamo sfidato il mondo, bastava chiederlo per un secondo, al cielo, al cuore o solamente a noi, col coraggio di vivere. Ma in questo albergo che non ha memoria, per uno sputo di vanagloria, noi due avversari senza una ragione, senza una ragione. Ora accendo una melodia, mi fa viaggiare, è una follia, un'attrazione, la musica si può inventare. La verità è che passiamo le notti a pensarci e cullarci tra sogni e ricordi. La verità è che facciamo di tutto per allontanarci alimentando sbagli, finché un bel giorno come per incanto tra la luce e il vento sei un passo da me, ed è in quel giorno che il mio cuore incontra.